in primo piano. Ancora buongiorno, anzi buongiorno da Giulia Crivelli, buongiorno anche a Irene. Buongiorno Giulia, ti seguiamo. E buon lunedì, molti di noi oggi sono tornati ufficialmente al lavoro, in città, le ferie, insomma c'è anche chi parte, però la maggior parte di noi sono rientrati e i temi sulle prime pagine dei giornali sono soprattutto politici, perché presto tornerà a lavorare anche il Parlamento, in realtà mancano ancora quasi 2 settimane, però il governo è già al lavoro su alcuni temi. Uno che in particolare è tornato di attualità dopo il dibattito che c'è stato in particolare al meeting di Rimini di CL è quello delle unioni civili. E allora il Corriere della Sera, dopo tra l'altro l'intervista che proprio ieri è stata rilasciata al Corriere della Sera dal Cardinale Bagnasco, che ha ribadito il no della Chiesa agli stessi diritti per le persone che sono legate da un'unione civile e non da un vero e proprio matrimonio, a proposito di matrimoni, e allora ecco che il Corriere della Sera torna sul tema, le unioni civili entro l'anno, questo è il titolo di apertura, perché è stata una dichiarazione dello stesso Premier Matteo Renzi, che appunto dice di voler accelerare su questa questione a lungo rimandata. L'Italia è uno dei pochissimi paesi che non ha una legge sulle unioni civili. Le fotonotizie del Corriere della Sera sono due, tutte e due di sport. Da una parte, prendendo spunto dall'avvio del campionato di calcio, c'è quella di Balotelli, che tutti danno per sicuro, danno per sicuro al Milan, quindi un ritorno al Milan, e poi la foto di Usain Bolt, che avete sentito anche nel GR ieri ai mondiali di atletica, ha vinto i 100 metri per solo per un centesimo, e moltissimi reportage. Il Corriere della Sera sul Corriere della Sera trovate quello di Gaia Piccardi, che è inviata appunto in Cina ai mondiali di atletica, e ci racconta questa vittoria straordinaria. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche, se c'è tempo ne leggeremo una parte, un'intervista di Antonella Baccaro al segretario della CGIL Susanna Camusso, che torna in particolare sul tema dell'andare in pensione prima del tempo e come questo si possa fare. Ieri abbiamo visto sul Sole 24 Ore che si sta lavorando alle proposte del presidente dell'INPS Tito Boeri, che prevederebbero, tra le altre cose, su questo tema in particolare, sull'anticipo della pensione, la possibilità di farlo ma con una riduzione della pensione, e Susanna Camusso dice la sua. Naturalmente non è d'accordo su questa soluzione, anche se ammette che i prepensionamenti anticipati potrebbero dare qualche possibilità in più all'occupazione dei giovani. Vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore, perché in questo caso il titolo principale è fatta su un'elaborazione del Sole 24 Ore sui dati fiscali del 2013, da cui emerge che gli imponibili sono calati in quasi tutte le province, un effetto della crisi naturalmente, ma alle sude isole, ma anche a Roma e Milano, ci sono cali oltre il 4%, anche se il dato più impressionante, come sempre, è quello del numero di contribuenti che dichiarano più di 75.000 euro, che vengono definiti super ricchi. Naturalmente parliamo di redditi lordi, quindi possiamo quantificare circa un reddito di 3.500 euro all'anno. Pensate, in Italia queste le persone che dopo lo leggeremo, le persone che dichiarano appunto più di 75.000 euro sono, tenetevi forte, 850.000. Ditemi voi se è possibile. Ovviamente non è possibile, questa è l'ulteriore dimostrazione che è vero che chi paga le tasse in Italia ne paga tantissime, ma è anche vero che l'Italia continua a essere il paese dell'evasione fiscale. Sul Sole 24 Ore vi segnalo anche l'iniziativa Amico del Sole, è arrivata ormai alla quarta settimana. Questa settimana si cambiano i due temi principali: da una parte la riforma della pubblica amministrazione, che entra in vigore proprio questa settimana, e dall'altra la scuola. Come sempre, come nelle scorse settimane, ai due temi sono dedicate due pagine. La prima, che si focalizzano su aspetti particolari del grande tema riforma della pubblica amministrazione, in particolare oggi da una parte c'è un approfondimento sul pubblico impiego a pagina 24, e per quanto riguarda la scuola, l'alternanza scuola-lavoro, che è un meccanismo che in altri paesi è già stato introdotto con successo, in particolare il modello è un po' quello tedesco, in Italia mancava, e in questa pagina di approfondimento, la 25, si cerca di spiegare come saranno regolati per esempio gli stage in azienda dal nuovo anno scolastico. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche il richiamo a un'inchiesta di Silvia Pieraccini, che fa parte di una lunga serie di puntate, di reportage intitolate Le chiavi della manifattura. Silvia Pieraccini, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Firenze, dalla Toscana in genere, ci racconta come è rinato il distretto della pelletteria intorno a Firenze e Prato, grazie soprattutto ai marchi del lusso. E trovate tutto a pagina 15. Ma vi dicevo, le dichiarazioni fiscali qui un po'... ci fosse Alessandro Milan da mani sul volante, perché poi a pagina 3 trovate questo fact checking appunto sui redditi. E allora vi segnalo appunto questa, quello che viene definito il club degli over 75.000 euro, e l'approfondimento di il pezzo di Cristiano Dall'Oste e anche questo approfondimento su questo club degli over 75.000 euro. Vi leggo le prime righe. Anche il club dei contribuenti che dichiarano più di 75.000 euro all'anno ha sentito gli effetti della crisi. Se è vero che la percentuale di ricchi è rimasta quasi invariata all'1,9%, il club ha perso 15.000 iscritti ed è sceso a 770.000 contribuenti. Ecco, quindi prima ho detto 850.000, in realtà siamo scesi a 770.000. Inoltre il reddito complessivo che fa capo a questi soggetti è passato dal 13,27% al 12,97% del totale. E tra l'altro trovate un'infografica molto interessante dove si vedono proprio tutti i numeri con le diverse province, ogni quadratino, ogni spazio è identificato da un pallino di colore diverso, che vi dà l'idea dell'entità del reddito medio in ciascuna di queste province. La Repubblica ha un titolo diverso perché la Repubblica ospita un intervento di Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione Europea, e quindi il titolo "L'Europa che voglio non è quella dei muri". Lo spunto naturalmente è al muro che si sta cercando di erigere in Macedonia per proteggersi in qualche modo, così si crede, dall'ondata di migranti in arrivo dalla Grecia, ma anche quello che in realtà è già in costruzione in Ungheria, sempre contro gli immigrati. La foto di copertina però è dedicata alla Juventus, che come avete sentito ieri ha perso in casa. E poi ci sono due articoli molto interessanti che vi segnalo. Uno è di John Lloyd, che è un giornalista inglese, scrive per Financial Times e tra l'altro ha scritto anche un libro sui media italiani, insieme a un giornalista di origine italiana che è Ferdinando Giuliano, che però lavora anche lui per Financial Times, e analizza un po' quelli che vengono chiamati i nostri ragazzi sedotti dall'odio. Il riferimento è alla notizia di ieri del giovane inglese chiamato Jihadi John, che in un video postato su internet, che ha fatto molto parlare ieri e probabilmente continuerà a far parlare, ha spiegato che è pronto a tornare a colpire, perché è più che mai convinto della sua scelta di abbracciare il credo dell'islamismo radicale e quindi del terrorismo. Poi vi segnalo un articolo di Emma Brooks su Jonathan Franzen, e colgo l'occasione anche per ricordarvi che insomma adesso in questi giorni si parla molto di Jonathan Franzen, perché è forse lo scrittore considerato il più importante scrittore americano contemporaneo. È in uscita il suo nuovo romanzo a settembre, il suo quinto romanzo, si chiama Purity, e colgo l'occasione per ricordarvi che con il Sole 24 Ore in edicola potete chiedere il magazine, che è uscito venerdì ma resterà in edicola per 4 settimane, perché oltre a essere in copertina Jonathan Franzen su Il, all'interno trovate anche un capitolo tradotto in anteprima di questo romanzo Purity, che negli Stati Uniti esce in settembre, mentre in Italia uscirà tradotto soltanto in febbraio, quindi un capitolo lo trovate. Ma in questo articolo di Evan Brooks, che poi trovate alle pagine 46 e 47, che è frutto di un incontro con lo scrittore, il titolo scelto dalla Repubblica è "Care femministe non possono non essere uomo", quindi un po' una polemica sulle discussioni che ci sono su quello che viene definito il nuovo femminismo, o comunque come affrontano il femminismo le nuove generazioni di americane e di scrittrici. Jonathan Franzen continua a dire: io non posso essere femminista, e comunque spiega poi anche molto altro in queste due pagine di Repubblica, appunto 46 e 47. Il Messaggero sceglie un titolo ancora diverso, che è quello dei profughi. Allarme profughi anche a Berlino. Il vice della Merkel infatti ieri ha ammesso: stiamo ricevendo troppe richieste d'asilo, e per la Germania si tratta della più grande, la sfida più grande dopo la riunificazione. L'Italia, per quanto riguarda il fronte italiano, il Messaggero riporta alcune delle dichiarazioni di ieri del nostro ministro degli esteri e di altri esponenti del governo che hanno riportato il focus sulla Libia, che resta il paese da stabilizzare a ogni costo, così scrive il Messaggero, o sarà il caos. Fotonotizia dedicata a Usain Bolt e poi due notizie vi segnalo, una che ho trovato solo sul Messaggero che però mi sembra importante, cioè che sul caso dei due fucilieri di Marina, i Marò, che sapete sono ancora sotto processo per accusati mentre pattugliavano le coste, mentre pattugliavano il mare al largo dell'India, di aver ucciso due pescatori e per questo appunto non sono ancora, uno in realtà in Italia per curarsi ma comunque potrebbe dover tornare in India in prigione presto. Ecco, sapete che l'Italia ha chiesto su questa questione un arbitrato internazionale e oggi è il giorno del primo verdetto. Siamo fiduciosi, ciò che trapela dal fronte italiano dopo due udienze di serrato confronto con l'India nell'aula del Tribunale Internazionale sul diritto del mare di Amburgo, oggi arriva la sentenza. I 21 giudici si pronunceranno stamani alle 11 sulle richieste urgenti avanzate dal nostro paese, quindi alle 11 sapremo qualcosa e magari domani, sui giornali di domani, troveremo anche alcuni commenti da citare. Per quanto riguarda i famigerati funerali di Vittorio Casamonica della settimana scorsa, il Messaggero anche qui ha una notizia che non ho visto sugli altri giornali, cioè che il parroco del quartiere dove vivono in Casamonica aveva detto di no al clan per questo funerale, che poi sapete invece si è svolto in un'altra chiesa, quella di Don Bosco, che ora è al centro di una bufera. Il sacerdote della zona in cui il boss risiedeva aveva intuito i rischi della cerimonia. I reportage, pagine 4 e 5. La Stampa ha alle stesse fotonotizie del Corriere della Sera, cioè da una parte Fulmine Bolt che resta re dei 100 metri con l'articolo di Giulia Zonga, più cervello che gambe dietro a quel centesimo, il riferimento è al centesimo che ha permesso a Bolt di battere il rivale Gatlin, e poi l'altra fotonotizia con un commento di Mattia Feltri di Balotelli, che appunto dovrebbe essere quasi certo il suo rientro al Milan dal Liverpool, dal Manchester, scusate. Balotelli ancora a Milan, che film sarà? E qui appunto il Liverpool, giusto, giocavano per il Liverpool, il Liverpool sapete è disposto a usare la formula del prestito e Balotelli quindi potrebbe tornare al Milan. La Gazzetta dello Sport, allora citiamola un po' prima del solito oggi, anche in questo caso naturalmente il titolo principale è tutto dedicato al campionato di ieri, con, l'avete sentito, il KO del Milan, invece la vittoria al 93esimo minuto dell'Inter e poi gli altri risultati. Due i commenti di Andrea Schianchi sul campionato in generale, le grandi quante false partenze, e poi di Luigi Garlando, perché crediamo ancora in Mario, e poi le altre notizie, quindi Bolt che vince i 100 metri, la notizia dell'esclusione di Nibali dalla Vuelta e poi la vittoria di Hamilton in Formula 1. Il giornale si dedica l'apertura all'immigrazione, invasione via terra e il sommario, continuano gli sbarchi ma ora è allarme soprattutto sul fronte della Macedonia, come dicevamo, con questa grande ondata dalla Grecia e il tentativo di fermarla anche con un muro o, come abbiamo visto nei giorni scorsi, anche con interventi molto decisi della polizia locale, che ha usato i lacrimogeni, ha usato le maniere forti. Migliaia di profughi spingono per entrare in Europa, è un'emergenza infinita. Vi segnalo l'analisi un po' sulla questione della Cina. Oggi riaprono i mercati e vedremo se dopo la settimana nera di ieri, la settimana scorsa, che è stata una settimana nera per tutte le borse, sapete la peggiore, ne avevamo parlato venerdì, dal 2011, quindi oggi riaprono i mercati, vediamo quanto effetto avrà ancora la situazione economica della Cina, che ha molto rallentato dopo essere stata la locomotiva dell'economia mondiale per tanto tempo. E allora l'analisi in questo caso di Vittorio Feltri è un po' semplicistica forse dal punto di vista economico, però contiene anche dei punti secondo me delineati con la giusta semplicità e parla appunto soprattutto anche delle previsioni degli economisti, che spesso poi si rivelano errate. La Cina è a fine corsa e ora diventerà molto simile a noi, la crisi di mercati e di un modello, appunto di Vittorio Feltri. A pagina 1, poi continua a pagina 20. Ora ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo poi per vedere le altre prime pagine e quello che c'è all'interno dei quotidiani di oggi. In primo piano, Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, siamo arrivati all'Unità che titola Operazione Umanitaria. La foto è quella di uno dei tanti barconi che sono stati soccorsi ieri al largo delle coste libiche. Sono barche, questa per esempio fotografata, che prevederebbero di trasportare circa 50 persone e in realtà vengono caricate con 10 volte tanto le persone, a volte anche di più. Il titolo Operazione appunto Umanitaria, e l'editoriale di Erasmo D'Angelis, il direttore dell'Unità, ve ne leggo una parte perché torna un po' sul fatto che questa è una settimana in cui ci saranno molti incontri sulla questione a livello europeo, sulla questione immigrazione, quindi vediamo se veramente si può sbloccare qualcosa. Scrive Erasmo D'Angelis: abbiamo visto troppi egoismi, nazionalismi e decisioni dettate da polemiche interne. L'Italia che si sta svegliando dal lungo sonno è riuscita a europeizzare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, che stanno riducendo molto il rischio di naufragi e tragedie in mare. Qui bisognerebbe guardare un pochino i dati, però è sicuramente vero che la spinta dell'Italia ha una maggiore presenza di rappresentanti dell'Europa, o comunque di tutte le, sappiamo che ci sono per esempio anche delle navi norvegesi impegnate in questo momento nei soccorsi, nell'aiuto ai barconi. Sicuramente l'Italia ha spinto molto perché ci fossero degli interventi pratici dell'Unione Europea in mare soprattutto. Allora scrive ancora D'Angelis: sembrava un obiettivo lontano, invece una realtà, e salvare le persone è un obbligo etico prima che politico. Il governo è riuscito a spingere il pachiderma Europa, che ora deve essere all'altezza della sfida, per il semplice motivo che i migranti non arrivano sulle coste italiane o della Grecia, ma in Europa. Quella che si apre è una settimana importante per la comunità internazionale, che proverà a chiudere un accordo per spegnere il vulcano Libia. È un pezzo del grande disordine globale che speriamo possa davvero trovare la sua stabilità. Quindi da una parte la cronaca, cioè quello che sta succedendo alle frontiere della Macedonia, ma anche dell'Ungheria e anche per esempio sull'isola di Kos; dall'altra i soccorsi in mare, soprattutto al largo delle coste libiche; e dall'altra ancora cercare di intervenire appunto in Libia. Alcuni pensano solo a un intervento politico e altri, come abbiamo visto nelle settimane scorse, anche a un intervento militare per stabilizzare la situazione in Libia. Il Fatto Quotidiano ha un titolo ancora diverso. Il Fatto Quotidiano del lunedì è un po' meno legato alla cronaca, come del resto il Sole 24 Ore, e più alle inchieste. Allora, l'inchiesta, la storia di copertina di oggi: le 10.000 poltrone dei sindacati. CGIL, CISL e UIL rivelano spesso stipendi da super manager, ma nella vita del sindacato pesano migliaia di incarichi in enti, fondi e istituti collaterali, spesso non controllati e nascosti ai più. E alle pagine 4 e 5 trovate la mappa di questa che il Fatto Quotidiano definisce la piccola casta. Il titolo all'interno è 10.000 poltrone possono bastare, e appunto si spiega che sono migliaia gli incarichi elargiti dagli organismi cosiddetti organismi bilaterali, sono oltre 1.300 gli enti finanziati direttamente dalle buste paga dei lavoratori, che generano gettoni di presenza, perché appunto sono enti e quindi poltrone legate direttamente al sindacato, quindi finanziati dal sindacato, che in grande parte si finanzia anche con le quote dei suoi iscritti. Il Foglio del lunedì, che sapete raccoglie un po' il meglio degli articoli usciti durante la settimana precedente sui quotidiani, ma anche su settimanali e mensili, sì, il meglio naturalmente secondo il direttore del Foglio Claudio Cerasa e il suo fondatore Giuliano Ferrara, l'approfondimento principale è sempre su un argomento, e questa volta si tratta della scuola. Il titolo: i precari e i deportati, un caso di scuola, le assunzioni, le graduatorie, le varie fasi della riforma, Bignami per comprendere il complicatissimo problema degli insegnanti, con tante citazioni dai giornali appunto della settimana precedente. Dall'interno poi vi segnalo un'intervista che è presa da Panorama a Calderoli, e qui il tema è un altro, quello della riforma costituzionale, che sapete attende i parlamentari al loro rientro, quindi tra due settimane, e sapete anche, forse ricordate, che Calderoli ha presentato 500.000 emendamenti, talmente tanti che si è deciso persino di non stamparli, perché sarebbe stata una spesa enorme stampare una copia per tutti i parlamentari di questi 500.000 emendamenti. Vi leggo una delle domande che viene fatta su questo argomento da Andrea Marcenaro a Roberto Calderoli, esponente della Lega, nonché naturalmente autore del famoso Porcellum, la precedente legge elettorale, quella che è ancora in vigore e che, se non verrà sostituita da una nuova legge, continuerà a essere la legge con la quale votiamo. E chiede Marcenaro: senatore Calderoli ha appena presentato 500.000 emendamenti alla legge di riforma del Senato, dicasi 500.000, salvo aggiungere di averne pronti di buon peso altri 6 milioni. E Calderoli risponde: ma dietro quei numeri c'è un lavoro appassionato, la politica continua a piacermi. Chiede Marcenaro: sta dicendo che la politica è fatta di mostruose perdite di tempo? Risposta: sto dicendo che cercare il buon senso nella politica è un'imperdonabile perdita di tempo e che è impossibile praticarla senza trovate, senza raggiri, senza usare strumenti che appaiono abnormi. Che senza la forza, cioè, ma dica pure il ricatto, non si combina niente. 6 milioni di emendamenti sono un ricatto? Lo sono. La proposta di Renzi è sbagliata. Buon senso vorrebbe che ascoltassi i suggerimenti di modifica. Lui non li ascolta, lui respinge il buon senso e io mi preparo alla guerra con 6 milioni di emendamenti. Ne servissero 12, ne farei 12. Questa è la politica secondo Calderoli. Passiamo alle pagine interne. Vi dicevo l'intervista di Susanna Camusso al Corriere della Sera, e qui vi leggo appunto le domande che riguardano la possibilità di andare in pensione prima e a quali regole, con quali regole. L'idea di anticipare il pensionamento a Palazzo Chigi c'è, dice Antonella Baccaro a Susanna Camusso, che risponde: i titoli sono giusti, lo svolgimento è sbagliato. Proporre che si vada in pensione prima, ma decurtando l'assegno, significa non sapere di che redditi si dispone in Italia e quali pensioni si preparano per il futuro. L'Antonella Baccaro ribatte: il governo per questo ipotizza un reddito minimo per gli over 55 e misure per il contrasto alla povertà. Risponde Susanna Camusso: bisogna contrastare la povertà, ma non dando qualche soldo e lavandosi la coscienza. Serve un percorso di inclusione. Abbiamo avuto incontri con Poletti, ministro del lavoro, sulle proposte sull'alleanza per la povertà, ma abbiamo visto un taglio diverso nelle ipotesi di Palazzo Chigi. Spieghi la vostra proposta, dice Baccaro. Andare in pensione a 67 anni non va bene e per certi lavori come l'edilizia o i trasporti è impossibile. Serve un meccanismo di flessibilità che però non penalizzi i trattamenti. E vedremo poi appunto quando riprenderà effettivamente il confronto su questi temi, se si riuscirà a trovare un compromesso tra le proposte del governo del ministro Poletti e le richieste dei sindacati, non solo CGIL naturalmente, ma anche CISL e UIL. Torniamo sulle pagine del Sole 24 Ore per quello che definirei un reality check, cioè parliamo tanto di migranti, di quanti ne arrivano in Europa ma soprattutto in Italia. Allora Rossella Cadeo, a pagina 5 del Sole 24 Ore di oggi, racconta in un articolo corredato da una mappa molto chiara: migranti, l'emergenza cresce a est, il 40% ora in Europa dal Mediterraneo orientale, il 30% dai Balcani, quindi ci sono questi due corridoi, no? Adesso in questo momento naturalmente anche per le favorevoli condizioni meteo si parla molto degli sbarchi attraverso il mare e degli arrivi attraverso il mare, ma c'è anche l'altra, appunto, l'altra via di accesso, che sono i Balcani. C'è poi una mappa dove appunto si spiega come siano stati distribuiti sul territorio italiano, questo a pagina 5 del Sole 24 Ore. Poi vi dicevo a pagina 15 l'inchiesta sul distretto della pelletteria intorno a Firenze, che sta creando anche molta occupazione. E poi vi ripeto a pagina 24 e 25 le due puntate dell'estate con il Sole: da una parte gli approfondimenti sul pubblico impiego con tutte le regole di questi nuovi concorsi per valorizzare i migliori e quelle che vengono definite le sanzioni certe ai fannulloni per quanto riguarda la pubblica amministrazione, e l'altro tema, la scuola, l'alternanza, stage in azienda, ecco la carta con i diritti e i doveri degli studenti che scelgono anche però di fare uno stage in azienda. Dalle pagine interne, vi dicevo, della Repubblica, questo articolo di John Lloyd che spiega un po', alcuni di noi forse lo hanno già letto da qualche parte, però come funziona il reclutamento di questi ragazzi, che lui, John Lloyd, parla naturalmente della situazione che conosce meglio, cioè quella del Regno Unito, ma questo succede, lo sappiamo, in Francia e anche in Italia, come avviene il reclutamento di giovani che sono magari anche nati in questi paesi o comunque hanno la cittadinanza di questi paesi e che poi vengono attirati quasi attirati così con questo fascino perverso delle lusinghe dell'ISIS, quei predicatori di odio contro i nostri valori di tolleranza. E John Lloyd, appunto, vi leggo le ultime righe che raccontano come questi video che vengono usati per reclutare i giovani. Ecco perché alcuni giovani musulmani si abbandonano all'odio e in alcuni casi si lanciano nella violenza attiva. Le comunità in senso più ampio iniziano a temere il nemico che hanno dentro di sé. Un numero crescente di cittadini chiede che si ponga fine all'immigrazione, che potrebbe far arrivare altri jihadisti. Il virus dell'odio interetnico in questo modo attecchisce e cresce e le società iniziano a disintegrarsi. L'IS, l'Islamic State, lo Stato islamico, così potrebbe vincere a meno di essere fermato. Poi una notizia curiosa: dopo anni, sapete, di grandi richieste superiori alla disponibilità per l'ingresso alle facoltà di medicina, ora la Repubblica Corrado Zunino spiega: fuga dai test, rinunciano in 5.000, diventare dottore non è più un sogno. A settembre ci sarà la prova per il numero chiuso, il calo maggiore c'è stato a Padova, Verona e Genova. Pesa il caos ricorsi, che spesso poi arriva dopo questi test di ammissione. E poi c'è chi va all'estero come scorciatoia. Sull'atletica, appunto, vi invito a leggere un po' di reportage di questa impresa di Bolt. Sulla Repubblica ce lo racconta Emanuela Audisio, che io credo sia una delle più brave giornaliste sportive che abbiamo in Italia, molto versatile, tra l'altro sa scrivere di tantissimi sport con una grande trapela sempre una grande passione. Vi leggo le prime righe del suo reportage da Pechino: non ci porterà più sulla Luna e nemmeno su Marte, ma il viaggio sarà ancora con lui, naturalmente Usain Bolt. Non staccate le puntine dal suo manifesto, perché la saga continua e se non acceca più, pazienza, basta il riverbero, un centesimo in meno. Al comando c'è ancora lui, nessuno cancella il pianeta Bolt, nessuno può allontanare la sua orbita. The King isn't dead, quindi il re non è morto. Dalle pagine interne del Messaggero, una notizia che trovate anche sugli altri giornali, ma non con questa enfasi, con questa chiarezza, cioè l'intervento di ieri di Berlusconi, che ha ribadito, aveva già espresso questa posizione in passato, ma ha ribadito il suo no alle primarie per decidere chi sarà il candidato del centrodestra alla guida del paese. Il no di Berlusconi divide, l'ex cavaliere stronca le aperture che erano arrivate in realtà da Giovanni Toti, governatore del centrodestra della Liguria, e da Renato Brunetta: sono uno strumento manipolabile, è meglio trovare accordi. Questa appunto è una tesi che Berlusconi aveva già espresso. L'irritazione di una parte del partito e di Fratelli d'Italia, che è alleato del centrodestra, e Maroni invece ribadisce che bisogna, Maroni è il governatore della Lombardia, esponente della Lega, ribadisce che invece andrebbero fatte, per quanto riguarda il sindaco di Milano, qui voteremo primavera del prossimo anno per il nuovo sindaco, e Raffaele Fitto, il grande dissidente di Forza Italia, invece continua a dire no, Silvio Berlusconi su questo sbaglia, le dobbiamo fare. A pagina 13 trovate i dettagli di quella notizia sul primo verdetto internazionale sui Marò, che abbiamo visto arriverà oggi alle 11. Mentre per quanto riguarda le pensioni anticipate, un'intervista sulla Stampa al vice ministro dell'economia Enrico Morando, che anche in questo caso dice: le pensioni anticipate le stiamo valutando, però non devono costare nulla allo Stato. E poi ribadisce anche che ci saranno sconti per i neos, che gli sconti per i neoassunti dureranno anche nel 2016. Subito sotto un'intervista al governatore del Piemonte Chiamparino: ieri abbiamo visto la sentenza della Corte di Cassazione che boccia l'utilizzo che ha fatto la regione Piemonte dei fondi, e il titolo dell'intervista: bilanci delle regioni a rischio, subito un chiarimento col tesoro. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti, vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei quotidiani e allora vi segnalo un'inchiesta del giornale sempre sul tema dell'immigrazione, ma in questo caso gli immigrati che già lavorano in Italia, e che c'è questo meccanismo per cui se vengono da altri paesi in realtà vengono assunti nel paese di origine, ma poi quindi hanno delle retribuzioni da fame che però fanno concorrenza, diciamo, sleale ai lavoratori italiani. E allora appunto l'inchiesta intitolata dal giornale sono assunti in Romania e lavorano da noi, i finti immigrati italiani. Dai camionisti agli infermieri, molti sono disposti ad accettare contratti senza tutele, così le aziende sfruttano le agenzie interinali all'estero per risparmiare sulla manodopera. Un meccanismo molto complesso che sicuramente è una delle tante anomalie che caratterizzano il mercato del lavoro in questo momento in Italia. Un'altra inchiesta del giornale, ancora sui sindacati, abbiamo visto quella del Fatto sugli enti bilaterali finanziati dai sindacati e che generano molte poltrone, creando quella che il Fatto Quotidiano definisce una piccola casta. Il giornale si concentra invece in particolare sulla CISL, sul suo segretario Anna Maria Furlan, che è definita colei che fa la guerra ai patrimoni, perché ha ribadito di recente la sua idea di tassare appunto i grandi patrimoni, ma ricorda il giornale, il suo ex segretario, cioè Bonanni, ha avuto la casa con lo sconto. La leader della CISL rilancia la patrimoniale, non disse una parola quando Bonanni comprò un mega appartamento pagandolo 4 volte meno del valore di mercato. E poi sappiamo lo scandalo di 2 settimane fa, quando un sindacalista della CISL, che poi è stato tra l'altro espulso, ha denunciato alcuni degli stipendi d'oro dei sindacalisti, soprattutto dovuti a un cumulo di incarichi. Dal Fatto Quotidiano un reportage da Baghdad, abbiamo parlato della Libia come vulcano che andrebbe spento. Beh, anche l'Iraq è sicuramente un paese per nulla rapacificato, e allora Francesca Borri è andata appunto a Baghdad, che viene definita la città dove l'ISIS è voglia di rivalsa, la città della guerra. Una bomba al giorno, pensate, lontano dai riflettori, non ferma le attività, perché la gente comunque cerca di vivere, di continuare a vivere, magari di andare a scuola, di far funzionare gli ospedali, di far funzionare tutto quello che serve alla normale vita di una città, ma lo jihadismo diventa una possibilità di riscatto che tiene in ostaggio il paese. È appunto il reportage di questa giornalista del Fatto Quotidiano. Passiamo a notizie magari un pochino più leggere dall'interno dei quotidiani. Allora, dal Corriere della Sera, forse qualcuno l'aveva vista su Twitter o sui social network, perché è molto girata ieri questa notizia. È un articolo di Michele Farina che ci racconta come gli ultimi nati in cattività dei panda, stregati dai piccoli panda. Mei Xiang, che è una panda naturalmente cinese, in un parco cinese, ha partorito a sorpresa 2 cuccioli, e l'evento è seguito in tutto il mondo grazie alla rete, perché non possiamo resistere davanti a quelle foto. Quindi un po' un racconto di questo salvataggio, perché ormai la maggior parte dei panda vivono, se non in cattività, comunque in ambienti controllati, perché sono da tempo a rischio di estinzione, non per niente sono il simbolo del WWF. E poi però anche questo nuovo modo che c'è di seguire questi eventi per tutti gli zoo e i parchi che si sono equipaggiati appunto su internet, grazie a telecamere messe in questi parchi naturali, in questi zoo. Il commento è dell'etologo Danilo Mainardi: l'orso che fatica a riprodursi persino in natura, e quindi a maggior ragione in cattività. Poi un approfondimento su Repubblica interessante, che si intitola Vivere senza emozioni, questo disturbo che è stato un po', e qui non si sa mai se queste malattie, soprattutto che riguardano la mente, la psiche, la psicologia, esistono davvero, sono inventate dai medici, viene sempre il dubbio. Però insomma, questo disturbo di appunto non avere tante emozioni si chiama alessitimia. È un disturbo di chi non riesce a comunicare gli stati d'animo. In un caso su 3 si pensa che l'origine sia genetica, ma spesso c'entrano l'educazione o traumi infantili. La ricerca, ci racconta Silvia Bencivelli, è agli inizi, e gli psicologi avvertono: guidare i più piccoli a descrivere cosa provano è già un aiuto e un modo per esorcizzare questa terribile malattia, se fosse vera appunto, di vivere senza emozioni. Vi dicevo, l'approfondimento di Emma Brooks, questa giornalista, su Jonathan Franzen, in occasione è un articolo in realtà apparso sul Guardian che Repubblica ha tradotto, l'occasione è l'uscita del nuovo romanzo di Jonathan Franzen, Purity, di cui vi ricordo ancora una volta, chi fosse curioso può leggere un capitolo in anteprima su Il Magazine, il magazine del Sole, in edicola con Il Sole 24 Ore. Il titolo dell'intervista: care femministe, non smetterò di essere un maschio, le polemiche con le donne, il web, che Jonathan Franzen sembra non amare molto, almeno negli aspetti più deleteri dei social network. La definisce come la DDR, cioè la Germania dell'Est prima dell'unificazione del 1989, e poi Jonathan Franzen svela anche qualcosa su questo nuovo romanzo Purity, che ricordo in uscita negli Stati Uniti in settembre, in Italia invece soltanto all'inizio del prossimo anno. A proposito di Cina, abbiamo detto oggi riaprono i mercati e vediamo un po' se ancora sentiremo le conseguenze della crisi cinese. Ma un reportage di Cristian Martini Grimaldi sulla prima pagina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, le pagine culturali del Messaggero, che ci racconta come figli unici la Cina dice basta. Negli anni 60 fu Deng Xiaoping, allora presidente della Cina, che provò a frenare il boom demografico imponendo appunto questa politica di un solo figlio a famiglia. Oggi però si prepara questa vera rivoluzione sociale, perché ora non c'è più questo obbligo, e nel 2013 per esempio ci sono state 470.000 nascite in più rispetto al 2013. Però c'è anche un accenno al fatto che in questo momento la Cina, secondo le statistiche disponibili, è ancora il paese più popoloso del mondo, ma sta per essere sorpassato dall'India. Vi segnalo poi un approfondimento sempre dal Messaggero intitolato Una poltrona per lei, che prende spunto da un editoriale del New York Times che ha riacceso il dibattito sulle pari opportunità nelle organizzazioni internazionali, che sono in questo momento tutte guidate da uomini. Il tempo è maturo, perché alla scadenza del mandato per esempio di Ban Ki-moon, che è l'attuale segretario generale dell'ONU, una donna diventi segretario generale. Appunto, le candidate secondo il Messaggero sono Irina Bokova, Federica Mogherini, l'attuale ministro degli esteri dell'Unione Europea, e Christine Lagarde, attuale presidente del Fondo Monetario Internazionale, anche perché le loro posizioni dimostrano che il cambiamento ormai è in atto. Io direi sarebbe in atto, e non ne sono così sicura. Comunque vedremo, quando appunto scadranno questi mandati, se arriverà qualche donna in più. Dalla pagina interna della Stampa una notizia curiosa, che riguarda la carrozzeria Bertone, una carrozzeria storica italiana. Andrà infatti all'asta online, tra l'altro, la collezione di 79 veicoli di una delle più famose carrozzerie italiane. Anche il marchio potrà essere acquistato. È un'azienda che ha avuto grandi successi, ma che da qualche anno è appunto in declino. E quindi Bertone, fine della corsa, tutto in vendita. La storia ce la racconta Piero Bianco a pagina 17 della Stampa. La Stampa ha anche un'intervista a Susanna Tamaro, la scrittrice italiana, autrice di uno dei libri più famosi, più venduti in assoluto del dopoguerra, cioè Va dove ti porta il cuore. Il suo ultimo titolo però è La regina della notte, e Susanna Tamaro ci racconta insomma i suoi piani per il futuro, il suo rapporto con la letteratura, e anche su questo nuovo libro che ha in uscita, che si chiama Il Miz. Invece sul Giornale vi segnalo che continua, è iniziata ormai dalla fine di luglio, questa serie che viene chiamata Lettere d'amore, dove il Giornale pubblica una lettera d'amore di una persona che non c'è più, di una scrittrice, di uno scrittore o di altri personaggi della cultura, e poi immagina una ipotetica, impossibile risposta invece di una persona che vive oggi. La lettera è una lettera di Emily Dickinson e la possibile risposta invece di Piera degli Esposti. Lo trovate a pagina 8, questa serie appunto del Giornale. Invece sul supplemento culturale, sulle pagine culturali che si intitolano Controcorrente, un interessante approfondimento su quelli che vengono definiti i laboratori dell'eternità. Ingegneria genetica, nanotecnologie e farmacologia, la scienza lancia una nuova sfida e punta a farci vivere più di 100 anni. L'Italia è già ben piazzata, ci racconta Stefano Filippi, perché siamo al terzo posto per longevità dopo Francia e dopo Spagna e Francia. Ultima segnalazione che riesco a farvi dalle pagine Radar, quindi le pagine culturali dell'Unità, che hanno un approfondimento sulla Maddalena, che tra l'altro forse potrebbe anche essere la sede del prossimo G20, e poi un meritevole ricordo, perché forse nessuno ne parla mai, di un grande scrittore, Guido Morselli, che è morto suicida a Varese nel 1973, e vengono ripubblicati alcuni suoi libri, forse appunto uno scrittore di cui si parla poco, e l'Unità lo ricorda con questo articolo, Il dramma borghese di Guido Morselli. Vedo Irene, che è già pronta invece ad anticiparci un po' i temi, che del resto avete già sentito verso le 7:15, di cui parlerà tra poco. Giulia, grazie, ritorni domani con la rassegna stampa. Grecia in primo piano alle 8:15 nel nostro incontro con il corrispondente. Parleremo di quanto accade e di quello che si profila da qui a poco con il corrispondente greco in Italia per Alfa TV e l'agenzia di stampa Athens News Agency. Si chiama Teodoro Andreadis Singelakis e con lui esploreremo il primo tema. Ci sposteremo poi dietro il backstage di un successo, il successo del Prosecco e della birra Made in Italy, perché partendo da questi numeri sorprendenti di Coldiretti e dagli articoli del Guardian sulla penetrazione del vino con le bollicine italiano che ormai ha scardinato lo champagne, prenderemo in esame le abitudini relative ai consumi di vino o alcol in generale fuori pasto e cosa raccontano di noi. Raccontano tanto di noi anche i dati sui matrimoni, perché in base ai dati Istat del 2013 che oggi analizzeremo insieme a un sociologo, sembra che l'amore sia classista. Certo, è una statistica molto tagliente, ma c'è una specie di classismo più o meno inconscio che guiderebbe il modo in cui cerchiamo il nostro partner, gli elementi che riteniamo necessari per iniziare a portare avanti una relazione sentimentale solida, duratura. Ma veramente questo influisce sulla scelta del marito, del compagno, della moglie, della futura sposa? E si sapeva che il vero amore non guarda in faccia a nulla, invece avremo esimi studiosi che affermano il contrario. Il tutto a spunti di vista, ora il GR.